L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera. Lurisia è una frazione del comune di Roccaforte Mondovì, ai piedi del Monte Pigna, nelle Alpi Liguri. È sede di una stazione sciistica, uno stabilimento termale, le Terme di Lurisia, e anche di Acque Minerali SRL. La prima parte viene da Wikipedia e vi indica la destinazione della puntata di oggi. L'ultima parte, quella sulle acque minerali, invece spiega il perché siamo andati fino là, dove si trovano gli stabilimenti in cui si imbottiglia l'acqua Lurisia, un'acqua che ha acquistato notorietà associando il suo nome a Slow Food e Italy, ma anche producendo bibite, succhi e birra un po' speciali. Ne parleremo con Alessandro Invernizzi, amministratore delegato di Acque Minerali SRL, al quale abbiamo chiesto prima di tutto di parlarci della collaborazione che ha avviato con il Politecnico di Torino per la salvaguardia di produzioni tipiche locali che possano avere effetti importanti sulla protezione e la tutela dell'ambiente e del territorio piemontese, nonché sulla salute dell'economia locale. L'agricoltura piemontese è molto legata al mondo del vino. Però causa la crisi e anche causa la patente a punti, negli ultimi anni anche questo mondo del vino ha iniziato ad avere tanti problemi sui volumi di vendita. E quindi quei vini che non erano molto nobili, come può essere il Barbera, soprattutto se non prodotti in zone nobili, come può essere le Langhe, hanno iniziato ad avere tanti problemi e ci sono stati tantissimi agricoltori che hanno iniziato a pensare di abbandonare le viti o addirittura di non coltivarle più, quindi di averle già abbandonate. Allora l'Università di Agraria di Torino, che è molto sensibile a questa cosa, ha detto: ma perché non cerchiamo un modo nuovo per sfruttare l'uva Barbera che non sia legato al vino? Allora, conoscendo il nostro mondo, conoscendo il mondo in cui noi viviamo, che è anche quello di Italy, ha detto: ma studiamo insieme un prodotto che sfrutti l'uva Barbera e che quindi incentivi queste persone a continuare a coltivare uva Barbera, ma che non sia legato al vino. Allora con l'università ci siamo messi lì e abbiamo visto che l'uva Barbera è un prodotto eccezionale dal punto di vista salutistico, aveva solo un piccolo problema, che è molto acida, tant'è che una delle caratteristiche dell'uva Barbera è proprio questa acidità. E allora si è deciso di inserirci in questo succo di frutta, che per noi è un prodotto nuovo, anche altri prodotti, la mela, la pera, la pesca, proprio per dare quella complessità di gusto e soprattutto quella possibilità di compensare l'acidità dell'uva Barbera con invece quello che è il classico sapore dell'uva, della mela, della pera, della pesca, quindi frutta polpa bianca molto dolce, ed è nato questo mix di prodotto che è 60% uva Barbera, 21% mela, 5% pesca e 4% pera. Tutte provenienti dall'area, dalla stessa zona, insomma, siamo sempre qui. Certo, il concetto era proprio quello di fare un prodotto che, partendo dalla carta, avesse già tutti quelli che sono secondo noi i valori attuali, quindi il concetto del forte presenza del territorio, perché alla fine per noi è importante l'uomo, noi mettiamo sempre l'uomo al centro dei nostri progetti, perché poi alla fine quello che per noi è importante è la sostenibilità della vita dell'uomo in futuro, che quindi vuol dire di conseguenza sostenibilità del territorio, sostenibilità delle famiglie, sostenibilità sociale, perché poi alla fine se noi pensiamo solo di salvaguardare le foreste, ma senza pensare che l'uomo prima o poi andrà a convivere con questa foresta, no, non c'è una vera sostenibilità secondo noi, perché altrimenti avremo un mondo vuoto. Quest'anno, nel 2012, quindi per poi la vendita fino alla prossima vendemmia nel 2013, abbiamo prodotto per 1 milione di bottiglie, che è una quantità enorme per un prodotto nuovo, ma piccolo per un prodotto che vive nel mondo del beverage. L'idea è quella di arrivare a 30 milioni di bottiglie, non si sa fra quanti anni, si spera il prima possibile. Questo vuol dire riprendere a coltivare 500 ettari d'uva Barbera, però scopo non vino, ma scopo succo di frutta. Questo è anche una sfida dal punto di vista anche agronomo, perché ovviamente oggi si coltiva uva per il vino, quindi che necessita una maggiore tasso zuccherino, perché serve per quanto riguarda il discorso del tasso alcolico. Invece a noi serve un'uva che sia più acida, perché ci serve per il discorso della conservazione. Quindi quello che faremo noi, o stiamo facendo noi, è anche un'impostazione diversa del modo di coltivare l'uva, perché appunto non sarà un'uva per fare del vino, ma un'uva per fare un succo. E sempre a proposito di coltivazioni, pensavo alla birra di cui parlavamo poco fa, perché anche lì c'è un progetto, no, di sviluppo poi dopo agricolo che riguarderà ancora la regione Piemonte. Sì, perché anche con la birra e soprattutto con il nostro partner che produce la birra, che è Teo Musso del birrificio Le Baladin, nasce l'idea di fare una birra fortemente italiana, tant'è che la nostra è una birra fatta 100% con malto italiano, malto d'orzo italiano, che è molto strano perché ovviamente quando uno pensa a livello mondiale della birra pensa a tutto tranne che all'Italia, pensa al Belgio, pensa all'Inghilterra, pensa alla Germania. Invece è l'idea che anche in Italia ci sono ottime materie prime per fare la birra. C'è una fortissima cultura che si è sviluppata negli ultimi 10 anni grazie a Teo Musso sulla produzione artigianale delle birre. Però fino ad ora l'idea era quella che rimanesse un prodotto di nicchia, quindi bottiglie molto grandi, birre molto buone ma anche molto particolari. Con Teo Musso invece l'anno scorso ho detto: ma perché non facciamo una birra normale che avesse le caratteristiche della qualità delle birre artigianali, ma che fosse per il mercato dei bevitori di birra normale, quindi che sono più attenti al fatto che sia buona, ovviamente, ma che sia fresca, gasata e bionda. E quindi è nata quest'altra sfida che è appunto la nostra birra normale, che nel nome richiama tutto quello che è il controsenso, perché è una birra artigianale, ma per il mercato delle birre normali. Anche qui il fatto di legarci molto al concetto del territorio, quindi creare una filiera corta il più possibile, quindi con un controllo addirittura in alcuni casi diretto dal punto di vista della coltivazione dell'orzo da parte di Teo, che conosce l'agricoltore, anche in questo caso dando un'impostazione di come coltivare l'orzo per diventare poi birra. Per noi è importante dare un nome e un cognome alle materie prime, tant'è che noi diciamo che il nostro chinotto è fatto col chinotto di Savona, che è un presidio slow food. La nostra. Che tra l'altro, pur essendo in Liguria, è qua vicino, quindi restiamo sempre in un ambito chilometrico non zero, ma quasi. Certo, perché comunque l'idea è essere pragmatici dal punto di vista della sostenibilità. Dove si riesce lo vogliamo fare. Ovviamente non ci sono coltivazioni di limoni vicino a noi o di arance, però abbiamo scelte quelle che erano italiane, quelle che avevano comunque un'impostazione di qualità, come il limone sfusato di Amalfi o l'arancia del Gargano, che il limone sfusato di Amalfi è un IGP, il limone sfusato di Amalfi l'arancia del Gargano sono sia IGP sia Prestigio Slow Food. Quindi sappiamo che coincidono i loro valori con i nostri, quindi sono cooperative in questo caso che lavorano con molta un'impostazione molto legata alla valorizzazione del territorio, la valorizzazione delle persone che lavorano in questo territorio, la valorizzazione della qualità del prodotto. Nonostante per un'azienda sia una cosa difficilissima, perché ti faccio un esempio semplice: il chinotto e le arance fioriscono una sola volta all'anno. Quindi vuol dire che se io non acquisto il giusto quantitativo nel mese di settembre per i chinotti, nel mese di marzo per le arance, vuol dire che per l'anno successivo o non ne ho comprato abbastanza, quindi non riuscirò a fare il chinotto, o ne ho comprato troppo e quindi avrò del prodotto in esubero che mi devo poi in qualche modo smaltire. O ancora peggio, se non c'è prodotto quell'anno. Ad esempio, si sa che più o meno una volta ogni 10 anni il chinotto per un anno non fiorisce perché c'è una ghiacciata che ghiaccia i germogli e quindi per un anno non ci saranno chinotti. Questo vuol dire che io devo riuscire ad avere comunque una scorta sufficiente per supplire a questo problema di un anno di mancanza addirittura del prodotto. A scoprire l'acqua Lurisia e le sue proprietà fu agli inizi del secolo scorso un minatore, o meglio ancora uno scalpellino come quello raffigurato sulla vecchia etichetta dell'acqua Lurisia, che colpì una vena sorgiva estraendo le lose, quelle lastre di pietra usate come copertura per i tetti in montagna. Era acqua buona da bere, ma non solo. I minatori presto infatti si accorsero che piaghe e ferite lavate con quell'acqua si rimarginavano in tempi molto brevi. La voce si sparse e nel 1940 nacque lo stabilimento termale Lurisia, che è ancora in funzione. Più tardi fu concessa anche l'autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua, che oggi arriva non solo in tutta Italia, ma fino in Cina e in America. Come la mette Alessandro Invernizzi con i detrattori dell'acqua in bottiglia, con i crociati soprattutto dell'acqua del sindaco? Sono cose diverse, dice e poi aggiunge. Tutti i giorni devo riuscire a vivere questa doppia faccia, no? Appunto dell'angelo che ha salvato i produttori del chinotto di Savona che prima che iniziassimo noi avevano solo 117 piante in produzione, oggi grazie al nostro prodotto sono più di 2000. E dall'altra parte invece quello che va a sfruttare un bene importante come l'acqua in maniera speculativa. Io dico solo una cosa, sicuramente l'attenzione che ha un'azienda di bottigliamento nei confronti dell'acqua non ce l'ha nessuno. Perché? Perché per noi è anche business e molte volte è soprattutto business, quindi noi non andremo mai a sprecare una goccia d'acqua. Fate conto che una persona normalmente utilizza 250 litri al giorno di acqua fresh, cioè acqua che può essere bevuta, ma solo mezzo litro da bere, 245 litri e mezzo li usa per fare tutt'altro, di cui, lo dico sempre, un po' cruda la cosa, 60 litri per lo sciacquone dell'acqua. E poi ad esempio il fatto che noi per tutelare la nostra acqua cosa facciamo? Tuteliamo il territorio in cui le nostre sono presenti le nostre sorgenti. Noi abbiamo una concessione mineraria di quasi 1000 ettari. Su questa concessione mineraria noi dobbiamo tutti i giorni verificare che non ci siano fonti di inquinamento, sia perché lo dobbiamo fare per legge, saremo legalmente perseguibili perché è una nostra tutela, e poi andremo a rischiare di inquinare le nostre sorgenti. Oggi in Italia viviamo una forte crisi idrica, più che sulla quantità dell'acqua, proprio sulla qualità dell'acqua. Oggi in Italia si sta già, per quanto riguarda il sistema idrico, arrivando a sfruttare la terzo livello di falda. Molto prima di non avere l'acqua, ci sarà tantissima acqua non utilizzabile perché inquinata. Grazie a tutti per l'ascolto. L'appuntamento tra una settimana alla stessa ora.